La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:37 primi 6 secondi, eccoci qua, benvenuti a Radio 24, la versione di Oscar. Dico subito il tema del giorno, per vedere chi di voi vuole telefonare all'800 24 00 24. Oggi raccogliamo la vostra opinione sul fatto: volete voi che entri in vigore i famosi costi standard della sanità, di cui sentiamo parlare da anni ma che non vediamo ancora applicati, oppure secondo voi è ingiusto andare verso la convergenza dei fabbisogni di spesa secondo criteri costruiti soprattutto sulle regioni che sono state più efficienti, più virtuose per destinare unità di capitali inferiori a livelli però di servizi offerti più elevati. Ce l'hanno promesso tanti anni fa, la cosa si è un po' frenata durante il governo Monti, secondo me un errore, e adesso si ripropone la questione sull'anno prossimo. Nel frattempo, prima di presentarvi l'ospite, che è davvero quello che a mio modestissimo giudizio ne sa di più davvero su questo e che si è impegnato su questo per conto dello Stato, tre cifre. La prima: abbiamo l'aggiornamento da parte di Bruxelles delle stime della spesa pubblica italiana sul PIL nel 2013. Ecco, nel 2012 era il 50,6% del PIL, nel 2013 sarà il 51,4% del PIL. In Germania è ferma al 44,7%. Capite che nella differenza, che sono 7 punti di PIL, cioè insomma più o meno 110 miliardi di euro, quando anche voi ci levate degli 85 miliardi di interessi che paghiamo sul debito pubblico, la quota più elevata che paghiamo rispetto alla Germania per via dello spread e così via, restano buoni 2 punti e mezzo di PIL di spesa pubblica rispetto agli standard tedeschi, non di un paese dove non c'è il welfare, che spendiamo in più. Seconda notizia: avete letto per un mese di tagli al fondo della sanità. Nella legge di stabilità il fondo sanitario nazionale sale di 2 miliardi rispetto a quello che era previsto nel 2013, quindi va a 109,9 miliardi. Quando leggete che le organizzazioni di settore potrebbero scioperare per il 1,1 miliardi di tagli previsti, quello sono solo gli effetti delle misure di contenimento dell'intera pubblica amministrazione, cioè blocco, turnover, eccetera eccetera eccetera, che c'è per tutti, e quella è la quota parte per la sanità, ma non sono tagli al fondo che riguardino i livelli di servizi. Tutto è demandato sui famosi 3 miliardi di tagli da maggiorazione del ticket o meno, che era ciò di cui avete letto un mese fa, poi evitato nella legge di stabilità, al patto sulla sanità regioni con il ministro Lorenzini, e sia le regioni che il ministro hanno fatto i matti per evitare ovviamente interventi sui costi, perché preferiscono un tavolo da cui, diciamolo chiaro, il ministro dell'economia non sia così pesante come al tavolo invece da cui è uscita la legge di stabilità. Dette queste quattro cose sui numeri, ecco l'ospite. È con noi il professor Luca Antonini, che è il presidente della COPAF, cioè la Commissione per l'Attuazione del Federalismo Fiscale, insegna giurisprudenza a Padova, ed è esattamente quello l'organo che in questi anni ha fatto tutto il lavoro preparatorio per capire come si metteva insieme il campione e poi per renderlo praticamente a disposizione. Il problema è se lo si attua o meno. Buongiorno e grazie professor Antonini. Buongiorno Oscar. Allora, grazie. Innanzitutto, tecnicamente, col lavoro che avete fatto, saremo pronti a applicare i costi standard? Ma guarda, i costi standard bisogna distinguere quelli della sanità che hanno un metodo e quelli per i comuni, fabbisogni standard, che ne hanno un altro. Qui stiamo parlando della sanità. La COPAF, sì, che io presiedo, si è molto occupata di quelli dei comuni, dove il metodo è bottom up, cioè parte dal basso, parte da rilevazioni, da questionari che sono stati fatti, e si arriva a capire qual è la spesa giustificata. Per quanto riguarda la sanità, il metodo è top down, cioè non c'è un esame analitico. Si individuano 5 regioni benchmark, e queste sono state individuate dal Ministero, vengono individuate in base a certi indici, non so, tasso di mortalità, equilibrio di bilancio, aver superato la bollinatura del rispetto dei LEA da parte del Ministero della Salute. I livelli essenziali di assistenza. I livelli essenziali, sì. Queste regioni sono state individuate, sono Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia e Veneto. Si stabiliscono delle percentuali di riparto della spesa, cioè 5% alla prevenzione, 51% per l'assistenza virtuale, 44 per quella ospedaliera, in modo da evitare uno dei problemi principali che determina i costi nella sanità italiana, che è l'eccessiva ospedalizzazione, soprattutto negli ospedali piccoli. Noi abbiamo circa 250 ospedali piccoli in Italia che curano male e costano moltissimo, no? Questo soprattutto a sud è il problema. Allora, riguardo alla spesa sanitaria, noi in Italia abbiamo alcuni dati particolari. Se partiamo dal 1998 al 2008 era raddoppiata, era 55 miliardi e è arrivata a 110 miliardi. Qual è il problema? Non è stato solo l'invecchiamento della popolazione, l'ingigantimento della spesa e gli sprechi. È stato anche il problema che a un certo punto sono stati fatti emergere dei debiti pregressi che esistevano. Per esempio nel 2008 c'è stato un ripiano di 12 miliardi di euro per un'operazione di trasparenza sui bilanci. Erano sotto il tappeto le spese, non si vedevano. Certamente abbiamo anche dei problemi proprio del sistema. Nel complesso la sanità italiana non è malissimo, è la seconda al mondo per qualità e l'undicesima per spesa, cioè la sanità degli Stati Uniti costa il 50% in più rispetto a quella italiana. Il problema è che abbiamo il peggio e il meglio del mondo in Italia, cioè abbiamo dei modelli che potremmo esportare nel mondo, abbiamo dei modelli che sono degli assoluti disastri, cioè alcune regioni sono quelle in cui si concentra il principale deficit della sanità. Allora, i costi standard io non penso che siano, sono molto importanti, permettono una certa redistribuzione importante, dovrebbero adesso entrare nella negoziazione del patto della salute già nel 2013, quindi già di quest'anno. Però evidentemente non è questo l'unico problema, cioè l'unico problema i problemi della sanità italiana riguardano anche altri aspetti, riguardano certe gestioni, come sono operate, magari il coraggio di trovare certe scelte che certe volte i presidenti di regioni nominati commissari della sanità non hanno il coraggio di affrontare, ad esempio la chiusura degli ospedali piccoli. Ecco, questo è un problema. Che diciamo così, molti identificano solo nel sud, clientelare e così via, però per essere chiari la moltiplicazione delle specializzazioni in piccole unità territoriali c'è anche al nord e anche quella è una fonte di moltiplicazione della spesa e di allocazione della spesa totalmente inefficiente. Io parlo per il mio Piemonte che è nel disastro per un programma di rientro che era necessario e anche lì il commissario, l'assessore è saltato e così via perché di fronte alla decisione di accorpare e specializzare, le resistenze sono fortissime. Certo, certo, e questo però è uno dei problemi che va affrontato. Teniamo conto che la sanità è stata anche parecchio tagliata, cioè negli ultimi anni rispetto al tendenziale di crescita che c'era, sono stati stanziati 22 miliardi in meno, quindi non è poco, e questo ha creato dei problemi al sistema. Per esempio, cosa sta succedendo? Molti gruppi privati ormai non si accreditano più, cioè non entrano nel sistema di accreditamento perché sanno che fuori si crea un mercato utile, valido, per l'inefficienza del pubblico che, dove scarseggiano le risorse. Cioè se tu devi andare a fare un attacco o devi fare un'operazione, faccio un esempio concreto, devi fare un'operazione per togliere una vena varicosa e ti dicono che la puoi fare ma fra 4 anni… tu vai al privato, vai al privato, paghi là. Ma ci vai subito. Lo interrompo solo per un minuto per le strade e poi torniamo col professor Antonini. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47, 4 secondi, e con noi il professor Luca Antonini, che è presidente del COPAF, la commissione tecnica che si è occupata dell'attuazione del federalismo fiscale, cioè di mettere insieme i dati per fare i costi standard nell'insieme poi delle autonomie dei comuni, eccetera. Oggi parliamo in particolare, ma poi arriveremo ai comuni, anche dei costi standard nella sanità. Avete capito, i costi generali della sanità sono raddoppiati nel decennio pre-crisi. I tagli poi sono stati, rispetto alla crescita ulteriore tendenziale, non pochi, di 22 miliardi. Eravamo arrivati al punto in cui, di fronte a una politica che poi taglia i tendenziali, obbligata per fare il saldo pubblico, ma non redistribuisce per eccellenze e ottimizzazione dell'organizzazione, e questo capita in moltissime regioni, non solo naturalmente in quelle sottoposte alla procedura di rientro coatto come il Lazio e così via, ecco che poi c'è un mercato parallelo di privati che invece di accreditarsi, cioè entrare nel sistema pubblico, dicono io ne sto fuori, tanto la gente da me deve venire anche se pagherà di più, ma avrà un servizio migliore e più rapido. Prima di tornare al professor Antonino, due ascoltatori. Giuseppe da Bergamo, prego Giuseppe. Buondì Giannino, io ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il professore, ha detto tante cose, però il problema è che le regioni virtuose, quelle che hanno speso meno oppure hanno speso meglio, sono penalizzate, quelle che hanno speso di più e hanno sprecato di più non sono state penalizzate, anzi hanno preso sovvenzionamenti superiori. Non mi sembra una cosa logica, dato che siamo in Italia. Adesso io non voglio portare l'esempio della siringa che è al sud che costa 10 centesimi e al nord costa 2 centesimi, lo sanno tutti, però tutte queste belle parole non hanno portato a niente. La spesa pubblica deve essere uguale su tutto il territorio nazionale. Non è possibile che io in Sicilia un'appendicite la paghi 1500 euro e a Bergamo 500 euro. O sono troppo bravi in Sicilia o sono troppo coglioni qui a Bergamo. Mi sembra una cosa logica. Chiarissimo quello che dice, ci richiama al punto, ci richiama a uno dei temi ricorrenti di questi anni, il sovrappiù fiscale rispetto all'unità di tasse pagata con analoga percentuale rispetto a quello che torna e a come si spende, ovviamente. Francesco da Massa Carrara, prego Francesco. Salve, saluto tutti, lei il suo ospite e niente, io parlo da una città particolare perché qua abbiamo un bel buco di centinaia di milioni, siamo sui 400 per la ASL locale e diciamo che insomma la Toscana era tra le prime regioni, era la terza eccellenza in Europa, improvvisamente abbiamo scoperto che avevamo un cratere gigantesco, quindi nonostante tutti i tagli ci sono stati degli interventi fortissimi che hanno in qualche modo creato i presupposti per ridurre il servizio, in realtà i risultati non ci sono lo stesso, nel senso continuiamo a mantenere moltissimi amministrativi, avere una penalizzazione per quel che riguarda i medici di pronto soccorso e il servizio in quanto tale e per il personale paramedico. La Toscana, diciamo anche questo per rimanere nei numeri, è diciamo una regione che prende 6,5 miliardi di euro di quei 108 per la spesa sanitaria, quindi la domanda è com'è possibile portare bilanci in procura e uscirne senza essere, come dire, interrogati in maniera più approfondita, visto che il nostro presidente è stato anche due volte assessore alla sanità. Queste va bene, questa è la chiara domanda che fa Francesco. Allora torniamo al professor Antonini, eravamo rimasti al punto in cui tagli ci sono stati rispetto a crescita tendenziale, il problema però è riorganizzare. È inutile dire che nelle regioni virtuose, nel nord, in Veneto e Lombardia, il tema sollevato dal primo ascoltatore è un tema iperpopolare. Lei che pensa? Ma certo, guardi, torno un attimo al dato precedente. Per 100 euro di spesa sanitaria privata, il privato ne investe 17. Nel pubblico, per 100 euro di spesa sanitaria pubblica, gli investimenti sono 2,7 euro. Una bella quindi differenza. Nel pubblico si stanno diminuendo enormemente gli investimenti. Questo creerà una forte, maggiore competitività del privato. Invece, quindi il problema di cui dicevamo prima. Per quanto riguarda la questione della contabilità, entra in vigore da quest'anno un decreto che prevede la trasparenza dei bilanci, perché uno dei problemi principali anche della difficoltà del controllo della spesa erano i bilanci non uniformi. Redatti noi dovremmo avere i bilanci delle ASA su internet. Redatti con principi che non li rendevano comparabili. Non li rendevano comparabili, capisce? Quindi se il dialogo delle ASL non dialoga col bilancio della regione, i controlli diventano difficili, soprattutto in un settore come quello della sanità, dove un medico può prescrivere le urgenze, eccetera, dove è difficile poter effettuare dei controlli puntuali già in natura, capisce? Già in se stessi. Quindi questi sono dei passi in avanti. Poi abbiamo delle disfunzioni che non sono tanto solo nei costi. Io dico, per esempio, in Veneto tu hai una percentuale dei parti cesarei che è il 29%. In Campania arrivano al 62%, no? Allora, queste sono le differenze pesanti. combattere solo coi piani di rientro, dove vai a tagliare solo i posti letto, non basta, perché certe volte devi tagliare i primari, ecco. Non devi tagliare i posti letto, perché sennò ti affollano i pronti soccorso, no? Come è successo all'Umberto I, lì andavano tagliati i primari, non andavano tagliati i posti letto, capito? Perché sennò poi la gente ti affolla e i pronto soccorsi. Cioè bisogna affrontare certi processi di ristrutturazione in certi casi, ci vuole un maggiore ricorso al commissariamento statale, là dove si capisce che il federalismo non funziona, e invece bisogna lasciare andare avanti i modelli che funzionano e che ormai sono dei modelli delle eccellenze mondiali. In Italia abbiamo il peggio e il meglio del mondo, dobbiamo lasciare tranquillo il meglio e il peggio dobbiamo avere il pugno forte. Però da quello che lei ha visto in questi anni lavorandoci sopra, l'anno prossimo cambia qualcosa? Lei è fiducioso nei confronti del patto Regione-Stato, oppure stiamo semplicemente parlando ancora una volta di regioni, quelle che hanno i maggiori problemi, che tenteranno di evitarli, i controlli dal centro, i commissariamenti, i bilanci trasparenti che rendono più evidenti i punti su cui bisogna intervenire? Che sensazione ha? È maturata una consapevolezza? Perché la gente dai messaggi che arrivano dice no. Guardi Giannino, lei prima ha portato l'esempio della Germania che ha ridotto la spesa pubblica. Beh, la Germania ha ridotto la spesa pubblica perché la Merkel ha governato nella stabilità di 8 anni e ha di fronte 4 anni ancora in cui sarà tranquillo. In Italia, finché avremo governi che cambiano ogni 3-4 mesi, capisce, che dopo 3-4 mesi cominciano a pensare a quello che deve venire dopo, è difficile affrontare i nodi strutturali. Io credo che l'Italia semplicemente si avvada delle condizioni di stabilità serie come gli altri paesi europei, potrà affrontare certi nodi. Certe cose si possono fare già da subito. Io penso che i costi standard siano importanti già introdurli quest'anno, perché sono un principio di razionalizzazione importante. Comunque si supera il cosiddetto lapis, che era quello che veniva previsto, la correzione che l'accordo portava fra le regioni rispetto ai danni, alla distribuzione diciamo più razionale che proponeva il Ministero della Salute. I costi standard correggono quello, non è una gran cosa, però è importante perché è un principio, anche i principi servono, e poi serve la continuità e la stabilità. Senta, per i comuni voi avete iniziato invece a elaborare, sono uscite prima per esempio le graduatorie, quelle di efficienza comparata per unità standard spesa nei servizi generali, ma arriveremo a un punto in cui in tutte le amministrazioni locali avremo delle comparazioni di efficienza? Beh, avremo le comparazioni del loro fabbisogno standard. Per i diversi servizi, quanto ci vorrà ancora secondo lei? Ma noi speriamo di poterci arrivare entro la fine di quest'anno ad avere tutte le funzioni standardizzate. Ah, cioè significa in realtà poche settimane. Sì, è un'ottima, i lavori sono molto avanzati. È un'ottima notizia, professor Antonini. Allora quando a fine anno ci sarà tutto, ne riparleremo sicuramente con lei. Avrete capito voi che siete in ascolto che molte regioni non saranno proprio entusiaste di passare davvero ai costi standard, quindi bisognerà che ne riparliamo tutti, e grazie a tutti quelli che ci hanno scritto segnalandoci molte scetticismi più che convinzioni. Grazie professor Antonini, rimanete su Radio 24, a domani.